Ci sono altri quattro poliziotti indagati, oltre ovviamente alla gente che ha sparato al ragazzo di 28 anni, Abderrahim Mansouri, e che già dall'inizio è indagato per omicidio volontario. Loro sono indagati per favoreggiamento e per omissione di soccorso. Sostanzialmente favoreggiamento perché, secondo i PM che indagano, avrebbero aggiustato il racconto di quanto successo quella sera per coprire il loro collega che ha sparato. In particolare, quando vennero sentiti dagli investigatori subito dopo la sparatoria, non avrebbero detto che sul posto c'erano anche degli altri testimoni, oltre ai poliziotti presenti per il controllo antidroga, e poi avrebbero detto il falso anche sui loro movimenti e sulla richiesta dei soccorsi per Mansouri. Infatti è emerso che il ragazzo, quando era a terra agonizzante, loro non avrebbero chiamato subito i soccorsi, sarebbero passati almeno una ventina di minuti tra lo sparo e la chiamata al 118. Il particolare, secondo me, interessante di queste nuove iscrizioni, di questi quattro poliziotti, è come i PM sono arrivati a queste conclusioni, cioè hanno sentito anzitutto i testimoni, che quindi c'erano, come dicevano fin dall'inizio i legali della famiglia di Abderrahim Mansouri, poi hanno analizzato la ricostruzione balistica della traiettoria del proiettile e hanno guardato anche le telecamere della zona. Dico che è interessante perché, allora, quello che dicono i testimoni, anche noi indirettamente lo sappiamo perché abbiamo parlato con i legali della famiglia Mansouri, appunto, dicono che il ragazzo non impugnava la pistola, che poi appunto si è rivelata essere una pistola replica di una Beretta, una pistola giocattolo. Sappiamo che cosa dice la ricostruzione balistica, quindi che Mansouri non è stato colpito in fronte, come ha detto il poliziotto, ma è stato colpito sopra l'orecchio destro, di lato. La sua testa, secondo la ricostruzione balistica, era rivolta verso sinistra, quindi una posizione che fa più pensare a una persona che sta per scappare piuttosto che a qualcuno che invece avanza frontalmente verso l'agente, verso il poliziotto, come invece il poliziotto ha dichiarato. Sappiamo anche che da una prima analisi fatta con le luci forensi non sono emerse impronte digitali su quella pistola giocattolo che Mansouri appunto avrebbe impugnato, secondo il racconto dell'agente. Ora poi su questo punto sarà credo questione di ore o di pochi giorni l'analisi del DNA sulla pistola per avere l'analisi accurata. Ovviamente se dovesse confermare che non ci sono impronte digitali e neanche biologiche su quell'arma, sarebbe un colpo non da poco al racconto del poliziotto. Ecco, tutte queste cose le sappiamo già, però non sapevamo una cosa, cioè che cosa, e non sappiamo tuttora che cosa si vede nelle telecamere di zona. Questi quattro nuovi indagati però sono stati indagati anche dopo aver visionato le telecamere, gli investigatori hanno visionato quelle telecamere, che quindi devono avere ripreso qualcosa di utile, altrimenti dalla procura avrebbero detto che le telecamere erano rotte piuttosto che puntavano su zone non utili alla ricostruzione del caso e via dicendo. Succede tante volte infatti di cronaca. Invece no, le telecamere devono aver ripreso qualcosa, perché dall'analisi delle telecamere hanno visto che i movimenti dei poliziotti non concordavano con quanto avevano raccontato agli investigatori. Quindi questo è un punto interessante, perché ricordo proprio che il giorno seguente, quello che intervista anche a noi, ci aveva detto i legali della famiglia Mansouri, loro avevano detto: anche dalle telecamere ricostruiremo la verità, perché loro ovviamente avevano parlato subito con i testimoni che avevano raccontato un'altra versione dei fatti, e dicevano: noi confidiamo che quelle telecamere effettivamente possano aver ripreso qualcosa di utile alle indagini. Ed effettivamente, vedendo le motivazioni per le quali sono stati iscritti questi quattro agenti nel registro degli indagati, emerge che forse anche le telecamere potranno appunto aiutare a ricostruire quanto successo. C'è un ulteriore dettaglio che era circolato e ti chiedo se è stato confermato oppure no, cioè sul giubbotto della vittima sarebbe stata trovata l'impronta di una scarpa, come se fosse stato pestato, è così? Ecco, anche qui la ricostruzione non è chiaro se di fango misto sangue, comunque c'è l'impronta di una scarpa sul giubbotto indossato da Mansouri. Chi ha fatto quella perizia ha detto che potrebbe anche essere successa questa cosa, cioè che nella fase poi di soccorso il giubbotto sia stato tagliato dai soccorritori, come si fa in questi casi, e quindi che poi possa essere rimasto lì per terra, e magari quell'impronta può essere stata fatta dopo. Quindi su questo non ci sono particolari ipotesi. Ecco, ovviamente le due sono che il corpo è stato in qualche modo postato, calpestato con un calcio, e quindi quell'impronta possa essere rimasta sul giubbotto, è un'ipotesi, oppure quella che è stato tagliato, è rimasto a terra, poi è stato calpestato successivamente. Diciamo che dalla versione iniziale della legittima difesa del poliziotto sono emersi solo elementi che hanno messo in discussione quella versione, e questo mi mi fa un po' pensare anche a cosa potrebbe succedere se dovessero approvare lo scudo penale per i poliziotti, cioè niente indagini, difesa sempre legittima, sostanziale libertà di sparare. Ecco, questo si sta configurando un po' come un caso da manuale, dove da una versione iniziale tutti gli elementi successivi vanno in una direzione diversa rispetto a quello raccontato. Poi è chiaro, bisognerà aspettare la fine delle indagini, i processi e tutto quanto, però ecco, gli elementi oggettivi finora emersi da chi sta indagando vanno in una direzione diversa rispetto al primo racconto.